La Zanzara Extra. Allora, David, ho un numero di telefono, il numero di telefono di un signore, non so manco come si chiama questo signore, è il signore che ha manifestato davanti al tribunale di Torino, pensate, la gente non c'ha veramente un cazzo da fare dalla mattina alla sera, contro la sentenza che ha assolto, seguitemi bene, ha assolto il pescivendolo che ha messo le aragoste sul ghiaccio con le, come si chiamano, chele, mi hanno detto che non si chiamano chele, sì, le zampe, diciamo, chiamiamole così, le zampe, legando le zampe con un elastico. Ci sono dei regolamenti che prevedono addirittura che questi elastici debbano avere certi colori per non disturbare le signore aragoste e per farle soffrire di meno. Io non so chi sia questo tizio qua, ma mi hanno regalato un numero magico, il numero di un telefonino. Facciamo finta di essere dalla parte sua, che ne so, della Lega del Cane. Sì, pronto? Sì, salve, con chi parlo? Sai, sono Ugo della Lega Nazionale, ciao. Lega Nazionale Difesa del Cane? Sì, sì, ciao. Ciao. Dimmi tutto. Senti, ma che è successo stamattina questa cosa qua? Ma bisogna farla finita con questi giudici che assolvono le persone? Lo so, lì purtroppo adesso il nostro problema principale è capire se si può comunque fare in modo di ritornare indietro, sì, far giudicare il pescivendolo, sì, anche se la legge prevede che una volta che è stato chiuso il processo, quello è assolto e basta. Certo. Ma sto pescivendolo è proprio un figlio di puttana, dai. Il problema non è tanto il pescivendolo, il problema è del giudice che non ha attuato quella che è la legge in vigore, tutto lì. Però insomma, dai, la sofferenza dell'aragosta mi sembra un po' troppo, no? Perché no? Perché io vorrei vedere il giudice col culo sul ghiaccio, se è piacevole o no. Sì, però amico mio, dai, la sofferenza dell'aragosta, diciamo la verità, cioè. Ma perché non soffrono le aragoste? Vabbè, ma poi comunque la mettono nel fuoco a bollire sta aragosta dopo, subito dopo, un secondo dopo che viene comprata. No, ma qua un secondo dopo, magari quella aragosta lì non veniva neanche venduta e doveva morire lì sul ghiaccio. Cioè, per te soffre sul serio, perché io, sai, i cani è una cosa, ma le aragoste, amico mio. Ascolta, perché i cani è una cosa? Allora, in Cina si mangiano i cani e loro dicono: voi italiani non vi mangiate i cani, sì, sono cazzi vostri, a noi ci piacciono. Spiegami, che differenza c'è la sofferenza di una aragosta? Ma poi soffrono, chi l'ha detto che soffrono? Come chi l'ha detto? Ci sono le ricerche di riviste scientifiche, hanno provato addirittura che quelle striduli, quando li buttano nell'acqua, sono striduli di urla, di sofferenza. Cioè, tu credi veramente che le aragoste o i crostacei, quando vengono messi nell'acqua, gridano la loro sofferenza? Ah, è perché non hanno le terminazioni nervose loro. Cioè, tu pensi che sia come un uomo che soffra? Perché la sofferenza umana e la sofferenza animale sono diverse. Ma non puoi paragonare l'aragosta al coso, scusami se te lo dico, l'aragosta ha un coso, l'aragosta ha un essere umano, dai, su. Sì, perché l'aragosta non soffre. Ma non soffre, sì, soffre. No, io sto facendo le domande a lei. Ma tu te la mangi o no l'aragosta? Tu te la mangi o no? No, io sono vegano, guarda, né aragoste, né carne, né pesce. Niente di origine animale, quindi sono molto molto coerente su quello che dico. Quelli che mangiano carne, che so, vedete, morti che camminano, zombie, che so. Ma non dico che sono morti che camminano, però io i problemi di obesità o di respirazione o cardiaci non ne ho. Spiegami perché te invece, chi mangia carne lamenta sempre di problemi. Spiegami perché quando si va dal dottore ti dicono: guardi, iniziamo a eliminare la carne e le proteine animali. Cioè, effettivamente io scoreggio un po' troppo, devo dirti la verità. Giusto, vabbè, tu pensa che bella la cacca dei vegani, magari non puzza neanche. Tu dici che non puzza, puzza di meno, dici? Tu guarda la cacca di un carnivoro e quella di un erbivoro, quale puzza di più? Non cago cadaveri digeriti, dai. Ma manco uova mangi? No, assolutamente. Vabbè, è vegano, è vegano. No, per carità, benissimo, io non discuto. Guarda che non c'è niente, ma guarda che non c'è niente di strano. Se tu mangi uova, sei tu che ti mangi il mestro di una gallina. Io mangio anche la carne. No, scusami, questa cosa è interessante. Il mestro di una gallina. Il mestro della gallina. Cioè, tu, mangiando le uova, uno mangia il mestro della gallina. Ma sai cosa mi dà ridere? Mi ricordi tanto come parla di un certo Cruciani che rompe le palle agli animalisti. E infatti sono io, amico mio. Che cazzo, sono un genio e conosco un po' tutti gli antianimalisti con pipalle. Sono io, dai, ti ho fatto uno scherzetto, dai, che ce frega. Dai, ma no, ma non è un problema, guarda. Dani, ti abbiamo beccato subito. Vabbè, ma non ti preoccupa, chi è questa qua? La tua ragazza animalista, chi è? No, è un'altra animalista, guarda, molto sveglia, è la presidente della sezione nazionale della Meta. Della Meta, ma ragazzi, ma come cazzo fate ad andare davanti al tribunale a fare la manifestazione sulla ragosa? Ma non c'avete un cazzo da fare la mattina alla sera? È lavoro loro. Ma giorno di riposo, coglione, lavoro tutta la settimana. Ma passa meglio il giorno di riposo, passalo meglio. Il giorno di riposo, dai, passalo meglio, vai a fatti una passeggiata, no, davanti al tribunale per le aragoste. Ma lo sai che tanti di... Passamelo un attimo, dai, passamelo un secondo. No, non vuole parlare lei di... Ma passamelo un secondo, dai, questa sto... Ma se mi voleva anche attaccare il telefono, io sono più diplomatico. Brava, bravo, si parla sempre, si parla sempre, si parla sempre. Ma no, ma sai perché io parlo sempre? Perché guarda, ho notato che quando parli con le persone poi iniziano a dirti cazzo, ma lo sai che avevi ragione? No, io guarda, ti assicuro che con me non può funzionare questa cosa qua, perché io sono su questa... Vabbè, ma non è che mi interessa, da oggi due della Digos hanno detto, guarda, da quanto vi conosciamo abbiamo iniziato a cambiare alimentazione. La Digos, i poliziotti, no. La Digos, non ci credo, dai. Pure quelle, ma c'è pure la legione qua. Pure così, cazzo, cioè guarda, ormai vi dovete arrendere, il futuro è vegan. Quindi, ma non mi dire che si tromba anche meglio. Vabbè, normale, cazzo, vuoi mettere. Guarda, di solito la carne provoca anche tumori, quindi... Cioè voglio vedere se rischio più io il tumore alla prostata o al speriamo di no. E poi dai, me la devi concedere. Ogni mangia cadaveri che muore sono tanti animali salvati. Cioè non ho capito, mangia cadaveri che muore sono tanti animali salvati, nel senso? Sono tante vite di altri animali salvati. Cioè più i carnivori più muoiono i carnivori. Tu quando muore uno che mangia carne sei contento? E lasciamoli morire sti carnivori che rompono i coglioni, dai, mica i vegani rompono i coglioni. I vegani rompono i coglioni ai mangiacadaveri, ma i mangiacadaveri rompono i coglioni a tutti, perché comunque è provato che anche chi mangia carne è semplicemente un pochino più violento degli altri, quindi non siamo noi violenti, capisci? Quanto ti vuoi confrontare, ma non solo a livello... Sì, tutto. ...morale ed etico, ma anche a livello... Adesso quello non confonde, che non è una minaccia, anche a livello fisico. Tanti mi dicono, ma voi vegani siete deboli. E io dico, beh, amico mio, andiamo in palestra e vediamo chi dei due è più debole. E fidati che tutta sta gente che mangia insalata di pollo in palestra... Cioè guarda che arrivano a 50 anni che i loro muscoli poi devono afflosciarsi per forza, perché il dottore gli dice cazzo ti è venuto un cancro al culo, devi smettere di mangiare carne. sei talmente, siamo a livello di cabaret, di comica, di teatro. Ti chiamo presto, ciao caro. Pronto? Padre, è lei? Sì, buonasera, lei non mi conosce, mi chiamo Davide. Io la chiamo perché ho un problema, può dedicarmi un minuto? Sì, volentieri. Un problema psicologico, io sono gay, sì. Il mio compagno mi ha mollato e dice che ha paura di me, che sono diventato violento. Io non ho mai fatto del male a nessuno. Mi ha mostrato pure la porta di legno sfondata con un pugno, dice, che sono strano, che mi trasformo, che... E sa qual è la cosa strana? Che vedo delle ombre dietro alle persone e a volte come un soffio di vento gelido che mi accarezza dietro la testa. Devi andare da qualche esorcista. Padre, io non le sto a spiegare proprio tutto perché ma devi sennò... andare da un esorcista per forza. Se sei così è segno che il demonio ti adopera, ti prende. Tu magari non ti accorgi che hai sfondato la porta con un pugno. Non ti accorgi, quindi guarda, ormai sono i fenomeni, sono fatti, e se cominci la notte, se qui, se senti incubi, se qui, se là, perché tante volte quelli che il demonio prende possesso temporaneo naturalmente, per 5 minuti, per 10, insomma, non dopo non ricordano più quello che hanno fatto. In quel periodo lì, quindi. E lui dice che ho sfondato la porta con la mano. Può essere. Non sarà mica un problema perché sono omosessuale, padre. E no, non è. È una malattia. Sì, però è trasgredire poi tutte le altre cose del Vangelo, della legge di Dio. Tanto che dice: voi comportatevi come se non foste così, andate a messa la domenica, pregate. Ci sono addirittura i ritiri, le conferenze per omosessuali, ci sono tante iniziative. Si guarisce? Si guarisce, non so neanche questo, probabilmente sì, perché così è un orientamento sbagliato delle cellule naturali, un orientamento sbagliato, insomma. Ci sono psicologi e neurologi che possono aiutare, ma bisogna andare ai gruppi cattolici, perché agli altri non ci importa proprio niente. Ecco, adesso sento di nuovo la mano fredda sulla nuca. Sì, diciamo sento Maria, la mano fredda sulla nuca, padre. Non temere, perché Dio è onnipotente, ti rivolge a Dio e mi dica qualche cosa, faccia qualcosa, padre. Sì, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito. Sento questo freddo sulla nuca. Ave Maria, piena di grazia, sia con te, tu sei benedetta fra le donne. Ah. E benedetto il frutto del paura. Seno, tu, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Angelo di Dio che sei Maya, il custode, illumina, custodisci, reggi, governa me. Maya, se ti fui affidato, prega con me. Questa, se ti fui affidato questa, dalla città fedele. San Michele Arcangelo. Schiaccia Maya, il diavolo. Maya, pietà, Signore. Maya. Ave Maria. Piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, concepita senza peccato, prega per noi, che ricorriamo a te. Tu che hai schiacciato la testa al serpente, tu che sei senza peccato originale, intercedi. Ecco. E dopo un po' di sofferenza che posso tornare alla normalità della vita. Aiutalo, abbi pietà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ma liberaci dal maligno. Che male. Dio Spirito Santo, ti illumini e ti conforti. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Saluto. La Zanzara. Mi è venuta un'idea, ma perché a scuola non sostituiamo l'ora di alternativa alla religione con un'ora del meglio della Zanzara? Secondo me è molto più educativo. Cari Cruciani e Parenzo, dall'Inghilterra sono riuscito a convertire un giovane ingegnere alla Zanzara e sentite quali sono le prime domande che gli sono venute in mente. Vabbè, innanzitutto, come cazzo fa quel cesso a stare con quella gnocca? E poi Natale. Sì, Natale. E quell'altro di destra, come cazzo ha 50 anni? Non è possibile. Vi dicevo prima di un signore di Fratelli d'Italia che ha scritto queste cose. Oggi vorrei poter essere sincero. Mentre i cani islamici ci uccidono e ci sterminano, noi pensiamo a fare leggi perché i frosci si possano sposare, ci scandalizziamo se un negro viene accoppato dopo aver aggredito un italiano e la magistratura indaga ed arresta i bravi italiani. E via ad accogliere finti profughi a braccia aperte. Che paese di merda e che continente di merda. Solo un nuovo manifesto di Verona contro gli islamici e negri ci può salvare. Nuove leggi razziali a tutela della comunità, della cristianità. Ecco cosa dovremmo fare. Ma gli italiani, popolo bue, non lo faranno, anche per colpa della nostra schifosa costituzione scritta dai maiali partigiani. Adesso va bene tutto, poi in un'altra cosa ha pure elogiato Hitler, eccetera. Questo è un rappresentante di Fratelli d'Italia, capo della provincia di Forlì. Capatazza, la provincia di Forlì. Ora va bene tutto, ma manco Trump le scrive queste cose. Cioè, Trump è più. Cioè, ragazzi, dai, chiamiamolo, vai, chiamiamo, datemi sto numero di telefono, forza. Pronto? Minutillo? Yeah. Sì, buonasera, sono Cruciani, ciao. Sì, ciao. Sì, ciao Minutillo, ma non ti vergogni di quello che hai scritto? Allora, io ho detto un pensiero molto semplice in relazione a quello che è successo tutto questo anno rispetto alla civiltà europea. Sì. Noi siamo sotto attacco, in guerra, sì, sì, e continuiamo ad essere qui che ci interroghiamo sui diritti da dare, sulle cose da fare, eccetera. Ma perché dici che ci vogliono nuove leggi razziali a tutela della cristianità? Non ho capito bene le nuove leggi razziali. Ma molto semplice, noi dobbiamo incominciare a sapere chi c'è da noi, sì, fare delle leggi specifiche per comprendere. Ma nuove leggi razziali, che è vuol molto, dire? Ma è molto provocatorio. No, ma un attimo solo, non ho capito perché noi pensiamo a fare le leggi perché i froci si possano sposare, ci scandalizziamo se un negro viene accoppato dopo aver aggredito un italiano. No, noi siamo una civiltà che dà i diritti agli omosessuali. No, ai froci hai detto, Bene, ha diritto ai froci di avere diritti. Io non ho nulla contro di loro, però ritengo di poterli chiamare come voglio, e non sì, dipende il modo. Loro debbano essere dati dei diritti. Bene, no? Ma che c'entra questo con, scusa, con gli attentati? Cioè, che c'entra questo con l'attentato adesso a Nizza? Cioè, non capisco che... È la decadenza della civiltà. Ah, noi ho capito. Siamo una civiltà decadente. E il Cisca... sì, sta dando... Che abbiamo assistito alle nostre autorità che sono andati ai funerali di una signora che probabilmente non è quello che ci ha raccontato, che si sono... Perché li chiami negri? Delle perché... vittime, no? Che si sono disinteressati delle vittime... della strage di Dacca, dopodiché subiamo un altro attentato, siamo qui ancora a fossilizzare fra Islam moderato, no, ma la magistratura che indaga Islam. La magistratura che indaga e arresta i bravi italiani, cioè quel signore là che è stato arrestato perché ha dato un pugno e quello è morto, a questo stavi dicendo questo qua, Mancini indaga e arresta i bravi italiani, cioè situazioni che dovrebbero essere trattate con più equilibrio, che invece vengono trattate con un razzismo al contrario, in cui ad essere... Hai detto che ci vorrebbe lo zietto, allora, ho letto qui... Allora, cioè, per te ci vorrebbe Hitler, devi avere il coraggio di dire che ci vorrebbe Hitler! Se lei mi chiede, il mio pensiero glielo spiego, se però lei mi dice, mi parla lei si dovrebbe dimettere immediatamente dalla carica, perché sta facendo, spero, mi auguro che la Meloni prenda le distanze da questa vergogna, da questa vergogna che lei ha scritto, vergogna, si dovrebbe dimettere, cospargersi il capo di cenere e nascondersi per sempre, perché un politico che invoca il ritorno al fascismo, pubblicamente si deve vergognare, e poi fa l'avvocato. Vede che lei non ha neanche letto quello che io ho detto. Ma sì, io è abbastanza molto diverso. Minutino, però elaborare un nuovo manifesto di Verona. Però scusi, contro islamici e negri, contro islamici e negri. Un nuovo manifesto di Verona, perché siamo assediati esattamente come eravamo assediati nel 43 dagli angloamericani. Siamo nuovamente assediati da una islamizzazione che arriva dal meridione d'Italia. Da islamici e negri hai detto, da islamici e negri. Certo. Sì, no, ma per carità, ma poi tu... No, scusa, chi è che ci sta invadendo? No, ma va tutto, no, ma va tutto bene, ma... Chi è che fa gli attentati? Che pregano rivolti alla Mecca, o sbaglio? Sì, ma va tutto bene, il problema è... No, va tutto bene, il problema è... Perché c'è un signore che invoca e fa l'elogio del ritorno al fascismo. E anche di Hitler, in parte. E di Hitler, e parla di cani, non va tutto bene, va tutto molto male, perché i manganelli di Italia, come si dovrebbe ribattezzare questo problema? Il problema del nostro paese, caro mio signore, è che siamo di fronte a un lassismo che, anche di fronte a una dichiarazione di guerra, qual è quella che ha pronunciato nei nostri confronti la cultura islamica, la religione islamica? Ma che dovremmo fare? Cacciare tutti gli islamici dall'Italia? Tutti gli islamici cacciati. Contro di noi, sono contro la nostra e dunque cultura, bisogna cacciarli tutti lei. Bisogna cacciarli sono tutti contro di lei vanno, lei, ca- lei che vanno cacciati che fa una trasmissione radiofonica lei se ci fosse al Baghdadi a Milano lei la sua trasmissione non la farebbe. Ma quello che c'entra, scusa, cosa c'entra? No, lo vuole capire questo, ma cosa c'entra? Scusi, lei dove ha preso la laurea? Paperino, nel paese di Topolino? Lei dove si è laureato in giurisprudenza? Nel paese di Topolino? Dove l'ha preso la laurea? sì, no, guardi, l'ho presa in un'università forse più importante della sua. Nella Repubblica di Topolino. È un po' professionale, se pensa, lei dice allora, che è stato lei ha invocato il ritorno del fascismo, lo sa che è contro la Costituzione invocare il ritorno del fascismo e del nazismo, lo sa o no? È vero, si studi, ecco, si studi le leggi, impari a capire che cosa significa. Si può esaltare il fascismo di fascismo. Scusi, lo zietto, chi sarebbe che lei ha scritto lo zietto? Hitler? Lo zio Adolfo, che venga qui a fare un po' di ordine, no? Perché appunto, forse con questa gente forse saremo più, ma lei sta certo che sono le camere a gas, avremo qualcuno che ci difende, cioè Hitler ci difenderebbe, Hitler ci difenderebbe, le camere a gas per forza. Lei contro l'ISIS preferisce Renzi, io contro l'ISIS se ci fosse qualcuno. Guardi, io sono di religione ebraica e quando uno stronzo invoca un, perché non ci sono altre definizioni purtroppo, cioè non saprei, provo adesso, mi sforzo a trovare. Se vogliamo invoca il ritorno a Hitler e Mussolini, quando uno stronzo, non saprei, non voglio più ripeterlo, uno stronzo, perché no, non saprei neanche cosa. No, ha detto dire, anche che preferisce Hitler a Renzi, appunto, cioè, quando uno come dice una cosa simile. O sbaglio, ha detto lei, ci vorrebbe meglio contro al Baghdadi, meglio Hitler di Renzi. Scusa, o sbaglio. E quando un coglione rotto in culo come lei viene a dire che siamo liberi di fare, come ha detto, scusi, lei siamo... è un coglione rotto in culo, perfetto, lei arriva la come l'ha dato dello stronzo, io ho detto che è uno stronzo chi invoca Hitler e Mussolini, sì, chi bravo, invoca il ritorno di Hitler e Mussolini, ma non ho capito, scusi bravo, vedi che lei ha paura, bene, ma ha paura di che cosa? Ha paura di che cosa? Manganelli d'Italia, ha paura di che cosa? Ma lei ha finito la sua carriera che non ha mai cominciato. Lei con oggi è la sua tomba della politica, per lei è finita. Lei oggi ha chiuso con la politica, per fortuna, perché è venuto fuori un tale casino, lei ha fatto, che torna nella spelonca dalla quale viene. Scusi, perché è meglio Hitler di Renzi per combattere al Baghdadi? No, perché ci vuole un po' di determinazione, di fermezza. Ah, beh, certo. Hitler faceva le camere a gas, a meno che a lei non piacciono le camere a gas. Ma cosa c'entrano le camere a gas? No, scusate, non c'entrano. No, non c'entrano niente. Perché voi vedete. Scusi, l'olocausto, c'è sta. L'olocausto. Siete delle vecchie comuniste. Tu, non c'è dubbio, io soprattutto. Voi siete delle vecchie comuniste. Sì. Voi che mi dite che cosa c'è da fare. Scusa, no? schifosa Costituzione scritta dai maiali partigiani, anche questo è scritto. Schifosa Costituzione scritta dai maiali partigiani. Noi abbiamo una Costituzione scritta dai maiali partigiani. Una Costituzione che è stata scritta nel 1946. Sì. Da chi? Da coloro che si sono imboscati e che hanno tradito la loro patria nel 1944-45. Lasciamo perdere, tu preferivi la vittoria di Mussolini, cioè preferivi il fascismo, diciamo la verità. Io sono convinto che quello sia il periodo migliore della nostra storia. Mussolini ancora oggi lei apre il codice penale e legge la prima pagina del codice penale vigente. C'è scritto che quel codice l'ha scritto Benito Mussolini. Cioè Mussolini è il più grande statista della storia italiana. Ma questa è una frase che ha detto Gianfranco Fini. No, lei ammira Mussolini o no? Io sono uno che ammira Mussolini. È stato un grande statista, sì o no? Riconosco a Mussolini di aver fatto tante belle cose per l'Italia. Bene, è meglio di tutto quello che è venuto dopo? Ma guardi, quando si dice che abbiamo 60 anni di malgoverno, diciamo tutti nella nostra memoria collettiva che i 60 anni partono dal 45 in poi, perché non dicono 80 anni di malgoverno, quindi credo che dire che prima non c'è stato malgoverno, perché prima consideravano il ventennio una dittatura. C'è la dittatura, era una dittatura, però questo qui abbiamo detto. Era una dittatura, sì o no? No, vorrei capire solo una cosa e poi basta. Era una dittatura, sì o no? Ma secondo me era un regime autoritario che aveva la condivisione di tutta la popolazione. Non era una dittatura, non lo definiresti una dittatura? Non la definirei propriamente una dittatura. Una dittatura. Quella nazista era una dittatura, quella fascista non era una dittatura. Come si chiama questo qui, abbiamo detto? Si chiama Francesco Minutino. Ascolti, credo che lei abbia chiuso, siamo Cruciani e Parenzo. Cruciani Parenzo, ma sì, va bene, la ringrazio. Prego, arrivederci. La saluto. Prego, arrivederci. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Roma Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Zanzara. Grande ritorno alla Zanzara. Il professore, avvocato Carlo Taormina. Buonasera, buonasera professore. Buonasera a voi. Come andiamo? Benissimo. Benissimo, sempre bene, sempre ottimamente, sempre ottimamente. Per professore... quello che mi riguarda, non per quello che succede nel mondo, per carità. Vabbè, quello per carità. No. Potrebbe difendere il califfo a questo punto, qualora venisse incriminato. Difenderesti da una il califfo? Beh, avendo difeso, chi ha difeso lui? Draskov? No, la difesa Saddam difesa. Riguarda tutti, sì, Saddam Hussein l'abbiamo iniziato a difendere, poi siccome lo volevano ammazzare un avvocato approsso all'altro, ho detto, beh, preferisco campare, quindi non lo difendo più. L'hanno però piccato, un avvocato, ma è andata benissimo lì, diciamo. Però, mi è andata bene. Per il suo cliente, diciamo, il signor Saddam, non è andata proprio alla grande. No, lui se l'è svignato perché hanno ammazzato. A me è andata bene che non mi hanno ammazzato. Perché hanno ammazzato, dice, altri avvocati. Esatto, uno l'hanno ammazzato. Ho letto una proposta sul web a proposito di quello che è successo, Taormina. Che ha fatto? Professore, ho sentito una proposta su web che hai fatto, che è quello di convocare ogni islamico italiano dovrebbe fare a Biura. Che cosa è stato? No, io dico una cosa. Siccome può essere facile l'accusa di, diciamo così, di discriminazione razziale, perché a questo punto di questo dovremmo parlare, facendo di tutta l'erba un fascio, io credo che su un punto tutti quanti possiamo essere d'accordo. Ci sono delle cose che da chiunque provengano debbono essere impedite. Le due cose delle quali mi interesso io sono queste. La prima, la possibilità, cioè la previsione. No, scusami, però che gli infedeli debbano essere uccisi. La seconda, la condizione della donna. Allora dico che gli islamici stiano in Italia va pure bene. A condizione che abbiurino, io mi ricordo ai te, che abbiurino a queste due cose. Credo che sia giusto, cioè, no, tu però hai scritto, Carlo, tu hai scritto, guai a distinguere, tutti gli islamici debbono essere cacciati. Questo hai scritto. Allora, tutti gli sale di preghiera stanno preparando attentati in Italia, certo. Allora, tutti gli islamici vanno cacciati, secondo te, dall'Italia. Allora, distinguiamo. Ma non distinguiamo, cose. l'hai scritto, aspetta, però. Galletti. Un momento. Questa è la sede per spiegare, no? Ho capito. Allora, la prima cosa è questa. Non c'è ombra di dubbio, questo mi risulta da quando facevo il sottosegretario agli interni con delega all'immigrazione e dove avevo fatto. Ma questo tanti anni fa, dai. Un tavolo, all'11 settembre. No, però Carlo, tu hai scritto guai a distinguere, non è che puoi scrivere una cosa e poi tirare il sasso Io non mi rimangio assolutamente nulla. Appunto. Io dico hai scritto anche il Corano, allora, è criminogeno. Il Corano è criminogeno. Beh, logico che il Corano è criminogeno. Ma come criminogeno? Nel momento in cui il Corano, pure interpretato. Ma sarebbe in un come modo dire la Bibbia, anche quella c'ha. Ma certo, anche la Bibbia, non c'è nessun problema. Solo che nessuno si sogna di seguire la lettera, no? Non è che la lapidazione esiste ancora. La Bibbia è superata dal Nuovo Testamento, il Corano non è superato assolutamente da niente. Allora, Corano è criminogeno? No, io dico. È criminogeno? Sì, lo confermo. Se il Corano è possibile interpretarlo in maniera tale per cui l'ISIS si proclama islamico e quindi legato al Corano, quello è un testo che deve essere considerato criminogeno. Per quanto riguarda la situazione italiana, io dico per quelle che sono le mie consapevolezze. Noi abbiamo oggi 15.000 sale di preghiera e moschee impenetrabili nelle quali... Ma chi ha detto che sono impenetrabili? Magari facciamo... Se ci sono armi e se ci sono soggetti che fanno che bisogna l'insegnamento... Fare? Che bisogna fare quello che deve essere fatto un accertamento per capire chi ci può stare e chi non ci può. Ma quello viene fatto quotidianamente, spero quotidianamente viene fatto. Che vuol dire? No, non lo fa. Ma tu che faresti? Convocheresti tutti quanti? Nelle moschee non ci può entrare nessuno, la polizia non ci entra nelle moschee, non perché non ci può entrare, perché non ci entra, perché la logica politica è quella di non farcela entrare. Allora, la prossima settimana voi saprete che in alcune moschee d'Italia vedrete che avrete ma la, se, la sì, però andiamo... In alcune moschee d'Italia si fa l'ingaggio di quelli che devono andare a combattere per l'ISIS e mettendosi la cinta intorno per poter... Ma tu, tu però hai scritto una cosa molto semplice, basta distinzioni, tutti gli islamici italiani vanno cacciati. Allora, ho capito, infatti, chi bisogna cacciare, dubbio, professor? Nel dubbio, allora... Nel dubbio? Nel dubbio bisogna cacciare, è inutile che ci prendiamo in giro. Ma chi? La matrice religiosa è assolutamente... incontestabile. Ma chi cacci? Ma nel momento sono in cui italiani questi alcuni islamici che vengono qui che sono italiani. E chi cacci? Se sono italiani che dicono che non uccidono gli infedeli e che trattano bene le donne, mi possono stare pure in Italia al di fuori di questa, vabbè, magari di lo questa dicono, espressa eh? Presa no, una cosa è dirlo ufficialmente, un'altra cosa è dirlo. Io ho sentito centinaia di interviste in queste ore dalle quali risulta che una condanna certa, chiara, nei confronti di quello che è accaduto in Francia, io non l'ho sentita, o raramente l'ho sentita. No, ma voglio dire, ma l'Italia si può o non si può garantire dal fatto che chi entra dentro il nostro paese non ammazzerà gli infedeli o non metterà le donne nelle condizioni in cui quelli si che ci sono adesso, secondo il Corano, quelli trattano male, però trattano male pure i froci musulmani. Sì, ma chi ha trattato, lo so che li buttano dai dirupi, per cui li buttano dai dirupi. Certamente una condizione, lei li caccia da studio, loro li buttano dai dirupi, chiaramente però è diverso. Questo è un altro problema. Che hai detto Parenzo? Scusa, che hai detto? Dico che lui li caccia dallo studio e va bene, questo che tu li cacci che Taormina li caccia, cioè non li fa entrare in studio. Stai paragonando l'ISIS a Taormina, no, tutt'altro, ho detto, no, ma è evidente che non... ho detto, lui a entrambi gli stanno sulle scatole gli omosessuali, con due reazioni diverse, uno li caccia dallo studio, gli dice qui non entrano omosessuali, gli altri li lapidano, li uccidono e fanno le peggio bestialità. No, vabbè, ti pare che sia la stessa cosa, secondo ma te? Ma è chiaro che non è la stessa cosa, l'italiano è una lingua che conosciamo entrambi, diciamo. Io non ho cacciato nessuno. No, avevi detto una volta cosa, proprio qui alla radio, che non li faresti entrare nello studio, cosa, ma insomma poco male. Ho detto una cosa diversa, cacciare è un comportamento, pensare quello che si possa fare o non fare è un'altra però cosa. Con gli islamici ma non vogliamo mettere sullo stesso piano con quello che succede per carità. In questo momento con questi islamici. È una cosa ormai non più sopportabile. Se continuiamo a discriminare, beh, non l'ho capito la ricetta di distinzione, e distinzione e sottodistinzioni, non finiamo. Non dobbiamo più. Distinguere, allora, non dobbiamo allora, distinguere. No, noi dobbiamo distinguere. Chi vuole la violenza? Dobbiamo distinguere o non distinguere? Ho capito, ma quello è chiaro. Anche il fatto che dichiarino che non vogliono la violenza, che non vogliono uccidere gli infedeli, che non vogliono mettere le donne nelle condizioni. Ma quello tutti a parole tutti lo dichiarano. No, ma intanto lo dicessero a parole. E come fare? Che devono fare? Un'assemblea pubblica di tutti i musulmani d'Italia? No, quando prendono il permesso di soggiorno, devono firmare una dichiarazione nella quale rifiutano queste due espressioni. Vabbè, ma che ci vuole? Quella dichiarazione non si nega mai a nessuno. Ma non si nega mai a nessuno. Aspetta, guardate, Safir, Milano, aspetta un attimo. Se non ragionate in questo modo vuol dire che fate certamente favoreggiamento della situazione come quella che si sta verificando. Ma non facciamo nessun favoreggiamento, no? No, fate favoreggiamento. Ma quando mai, perché, no? Perché, scusa, qual è l'obiezione che può essere fatta ad uno Stato il quale chiede a un cittadino del mondo che se entra dentro il nostro territorio non deve uccidere gli infedeli, vabbè, ma non credo, deve quello... trattare da schiave le donne. Ma quello è facile fare ma quello è facile fare questa dichiarazione. Ma guarda che non lo dicono tutta la gente. Aspetta, che Safir da Milano, aspetta. In questi giorni non l'ha detto. Safir da Milano, che mi dici? Buonasera. Dimmi. Io sono musulmano di Zenica, sì. In Bosnia e Herzegovina. Sì. Sono qua da tanti anni in Italia. Sì. Lavoro onestamente, pago le tasse, sì. Ho famiglia, sì. E sono musulmano. Sì. Io, sono, allora? Io sono orgoglioso di essere musulmano e io sono contrario di ogni forma di terrorismo. Vabbè, e questo lo sappiamo. E questo signore non può dire che tutti i musulmani devono andare fuori d'Italia. Non sto dicendo Cacciani, questo, sto dicendo... Io ho sentito che vanno cacciati tutti. Un'altra cosa. No, io ho sentito bene. Tutti i musulmani non sono terroristi. Io sono contrario al terrorismo. Le sto dicendo un'altra cosa. Le sto dicendo non mi sembra. Che se lei sta qui in Italia ritenendo che non debbono essere uccisi gli infedeli e che le donne non debbono essere sottoposte a schiavitù, a me sta benissimo che lei sia in Italia. Io sono contrario di questa violenza. È lei che dice che tutti devono essere buttati fuori di paese. Allora vada lei fuori di paese, non io. Se lei è contrario a questa violenza, sta benissimo in questo paese. Io sto benissimo, ma lei fa uguali tutti i musulmani che sono in Italia. Le sto dicendo una cosa diversa. Lei deve chiedere scusa. Senta, lei scusa non vuole tutti i musulmani che vivono in Italia sono onesti. Ha capito? Però, professore, tu hai scritto su Twitter delle cose. È inutile negarlo. Basta distinguere. Tutti fuori, tutti a casa. Dai. Ma certo che... Nel momento in cui l'islamico che non si ritiene terrorista non fa questo tipo di valutazione e di distinzione, certamente se ne deve andare nel nostro paese o non deve entrare. Questo lo confermo. Ho capito, ma non è che solo questo è scritto anche altre cose. Ma te le sto dicendo. Ogni imam convochi i fedeli con funzionario del Ministero dell'Interno e ordini di abiura del Corano che comanda uccisioni infedeli. Perché secondo te hai detto... Hai detto che il Corano è criminogeno. Quando sappiamo che gli imam dentro alle loro comunità invece fanno ben altre cose. Scusa, Safir. Dai vari arresti che sono stati fatti. Hai sentito come considera il Corano, professore? Che cosa? Certo, che è criminogeno. È criminogeno. Se il Corano... Aspetta, fammi sentire... Parlate di cose che non sapete. Fate tutto uguale. Noi non siamo tutti uguali. Capito? Questa è offesa di musulmano. Lei deve chiedere scusa. È criminogeno. Chieda scusa. Se il Corano produce... Ma lei ha letto il Corano o non ha letto niente lei? Perché non sa niente. Tutto, non si preoccupi. No, io mi preoccupo invece. Io vivo in Italia. Io non vado via d'Italia. Via d'Italia deve andare gente come lei, che non sa niente. Può rimanere in Italia. Lei può rimanere in Italia. Vabbè. Se non fa certo terrorismo. Che resto in Italia. Chieda scusa per quello che ha detto. Si vergogni. Vergogna. Se lei non si decide o non dichiara... Ma hai detto che il Corano è criminogeno? Deve andarsene a calci nel culo dall'Italia, ha capito? Ma lui non vuole fare nessuna di che... culo voi, non io. Io sono onesto, sono contrario di violenza. E infatti, vede, voi offendete tutto. Dicendo che fate noi tutto italiani uguale, non dobbiamo è uguale. Andare. Quindi lei sta Vergogna. Dicendo che siamo noi italiani che ce ne dobbiamo andare. Ha capito? Lei di sicuro si deve andare ma via. Quella non vuole... Lei di sicuro si deve andare ma via. Scusa, ma Safir non vuole fare nessuna dichiarazione, vero Safir? Non vuole fare nessuna dichiarazione, non te ne fotti di fare dichiarazione o no? Non ho capito. Cosa... Tu non vuoi fare nessuna dichiarazione sulle donne? Ma che dichiarazione devo fare se sono onesto? Pago tasse. Lo vedi? Non la fa io la pago tasse, io sono persona onesta. Non come questo signore che dice che non sono uguali, terroristi loro, non io. La dichiarazione perché rimane nell'ambiguità. Vergogna. Non fa la dichiarazione. Ma che dichiarazione? Non mi interessa niente di dichiarazione. E contro la schiavitù delle donne. Ha detto lei fuori dall'Italia, non io. Questo si deve scusare con musulmani onesti come io. Quindi allora è uno che se ne deve andare perché non fa la dichiarazione. Non la fa la dichiarazione. Ma non la vuole fare la dichiarazione. La deve fare. Ma perché la deve fare? Dichiarazione? Io ma non mi interessa fare. Questo. Ma perché? Cosa dice questo la signore? La deve fare, ma cammina, va. Va dal tuo imam, vai. Ma perché? Non la vuole fare la dichiarazione. Imam, ma non la vuole fare. Questo è razzismo. Settimana prossima, un musulmano in Italia come me. Settimana prossima ti accorgerai di quello che viene fuori. A proposito degli ingaggi che fate. Ma non la vuole. Ma che fate? Sai che cosa viene fuori? Scusa, Safir, tu vuoi fare sta dichiarazione o no? Io voglio vivere, io sono onesto, voglio vivere solo in Italia e non voglio razzisti che dicono che tutti devono andare fuori come questo signore. Se non vuoi, se vuoi uccidere gli infedeli, non ci stai. Se tu in Italia tua moglie la vuoi. Ma questi sono. Ma io non capisco Corano, cosa dice questo non signore. Non ci puoi stare. Ma tua moglie è sottomessa. Safir, tua moglie è sottomessa, no? A te? Sì, un po' sì. Cosa se? Tua moglie è un po' sottomessa, tu la sottometti un po' o no? Cosa vuol dire questo? Come la tratti tua moglie? Io mia moglie, voglio bene mia moglie, i miei figli. Ma anch'io voglio bene mia moglie, che ragione. Sì, ma no, non è questa la domanda. La domanda è un'altra, come la tratti? Come la tratti? Benissimo. Ma perché deve trattarla male? Non ho capito. Tu tratti malissimo musulmani in Italia. Quante mogli hai? Safir, quante mogli hai? Io perché fai questa domanda a me? Io ho una moglie. Sì, no, perché è importante. Beh, quante mogli hai? Dimmi la verità, dimmi la verità. Ma qua voi prendete in giro, io ho telefonato non prendiamo in giro, siamo contrari noi a più mogli, capito? Qual è il discorso? Quante mogli hai, Safir? Se voi in Italia non ci potete stare con più mogli, perché questa è... Ma chi è che ha più mogli? Ed è un reale. Questo è, tu non conosci cultura di musulmani, tu non conosci questo, tu parli senza conoscere cultura di altri. Quante mogli hai? In Italia non puoi avere quante mogli hai? Hai capito? Non le puoi avere più mogli, capito? Questo è un reato, per cui devi andare nessun a fare reato. Io posso avere quattro mogli, va bene? No, in mia cultura in Italia si può no. Avere. In tu Italia non no. Avere. Io non posso avere. Io sono onesto. Quattro non faccio in niente Italia. Male non le puoi qua. Avere. Hai capito? Non le puoi avere quattro mogli. Vabbè, questo ma vuole questo vuole avere quattro mogli. No, mi dispiace, non è così. Vabbè, Carlo. Perché non è così che si rispettano le leggi dello Stato. Vabbè. Non è così. Vi lascio, ciao Carlo, ciao. Follie animaliste. Abbiamo scoperto che a Milano ha aperto un luogo, non dico un negozio perché non si può definire un negozio, una specie di club, di associazione che organizza, tenetevi forte amici miei, i compleanni degli animali. Organizzare il compleanno io non lo capisco, perché uno che pensa al compleanno del cane e del gatto per me è matto. Lo voglio dire che è matto? Adesso a te non può venire in mente una cosa del genere, cioè no. Una persona che ha un minimo di logica, cioè un minimo, dico, poi io sono un però pazzo scatenato. Però vorrei essere quello che ha pensato questa cosa. Tu dici perché ti fotto i soldi in questo no, modo? Vorrei, no, fotto no, perché non fotto niente, fotto solo legalmente. Vorrei essere il genio che ha inventato questa roba. La telefonatina la facciamo, dai, fatemi squillare il telefono di questo Bau Bau. Buonasera. Sì, buonasera. Ho letto da qualche parte che organizzate dei compleanni per i cani. Sì, esatto. Magnifico. No, meravigliosa questa cosa. Volevo capire, ma quanto costa un compleanno? Sì, allora, fino a 10 cani viene 80 euro solo l'affitto dello spazio. Dovrebbe invitare gli amici del parchetto con cui di solito gioca. Ah, gli amici del parchetto con cui gioca. Cioè, posso confessare una cosa? Il problema è che il mio cane sta morendo. Ah, ok. E io voglio organizzare questa cosa quanto prima. Adesso fa 3 anni la prossima settimana. Sì. Cosa si può fare? Ma voglio organizzare una cosa in grande stile, perché magari trovate voi altri cani. Ma quello assolutamente, magari cani molto tranquilli, insomma, che non siano troppo irruenti, se già lui non è uno. Ma no, perché sta un po' male, ha capito? Sta un po' male. Le passo un attimo al mio compagno, che è quello che ha veramente il cane, che le deve dire una cosa importante, però. Un attimo, ci sei, Franco? Pronto? Sì. Eccomi, sono Franco, buonasera. Sì, buonasera. E forse il mio compagno le ha già parlato dei tempi stretti che abbiamo... Per questa cosa terribile. No, è possibile eventualmente avere soltanto dei cani maschi? Sì, possiamo cercare di organizzarlo. Perché poi il nostro cane, Dildo... Ecco, diglielo. Dildo, diciamo, è omosessuale, quindi... Ok, vabbè, non è un problema. Diciamo. Non è un problema per voi? No, perché tutta questa cosa adesso del riconoscimento dei cattolici Dem, che non, del PD, che non vogliono... No, vabbè. No, lo dicevo perché ho letto anche sui giornali oggi che sono i cattolici e il Partito Democratico. Ma che c'entra che quello, Franco? Ah, no, sono le coppie normali. Sì, dai. No, vabbè, però, capito, però. No, magari però... loro hanno degli ostacoli a avere un cane gay, non lo so. No, ci mancherà. No, chiedo, non lo so. Ma le torte le fate, le torte? Sì, certo. Quanto potrà costare il tutto? Allora, guardi, non glielo so dire, cioè... Vabbè, ragazzi, questo cane qua purtroppo vuole solo maschi intorno, io che devo fare? Mi dica lei se è possibile. Lo so, cioè, che... se vi crea imbarazzo al negozio, andiamo da un'altra parte. Insomma, se il fatto che noi siamo gay, anche i cani, noi non. Ma ci mancherebbe, io ho un sacco di amici gay, si figura. No, anche cani gay? No, ecco, quelli non saprei neanche come poterli riconoscere. Lì bisognerebbe capire, cioè, no, è facile riconoscere invece, perché i cani maschi gay, specie ai giardini, si annusano e si accoppiano solo con Sì, appunto, questo è. Ecco, non ci è mai successo, però per carità, viviamo in tempi moderni. Modernissimi, sì. No, mi preoccupavo il fatto che appunto, siccome... Ma durante le vostre feste ballano insieme questi cani, che fanno? Importante questo, perché sa... Non è che ballano, giocano tra di loro, sì, e passano del tempo insieme e si divertono, ecco. Quello. Lui, a lui piace molto la musica di Madonna, per esempio, si può mettere? È ovvio, e chi poteva, se non Madonna, è evidente che debba piacergli Madonna, giustamente. Madonna, Tiziano Ferro. Certo, certo, poi la compilation la scegliamo insieme, non c'è nessun problema. Va bene, allora, va molto, bene. Molto gentile, grazie. Buonasera. Arrivederci.